Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nell'agosto del 1959 le isole Hawaii entrarono a far parte degli Stati Uniti. Sulle pagine del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, Paul Theroux traccia un bilancio dei primi 50 anni di vita statunitense dell'arcipelago tra sviluppo economico e problemi di integrazione. Un giorno all'Elks Club di Honolulu, un anziano signore di origini cinesi mi disse: una volta questo club e quello qui accanto erano molto esclusivi. Ciò che intendeva dire era che all'Elks e all'Outrigger Canoe Club, così come a quasi tutti i club più prestigiosi delle Hawaii, non erano ammessi i cinesi o, più in generale, chiunque non fosse bianco, aole o di etnia hawaiana. Ma, aggiunse sua figlia, con la marcia su Selma del reverendo King è cambiata ogni cosa. Non era quindi bastata la proclamazione dello Stato a far sì che i club hawaiani venissero aperti ad altre razze o anche solo a inaugurare un'era di buoni sentimenti. Per questo ci sarebbero volute la legge sui diritti civili del 1964 e le lotte del reverendo Martin Luther King. Quando divenne il 50° stato degli Stati Uniti 50 anni fa, l'arcipelago delle Hawaii con le sue 8 isole principali e tutte le altre isolette e gli atolli che lo costituiscono era ancora un paese molto antiquato, da ogni punto di vista. Una catena di isole coperte da piantagioni di ananas e canna da zucchero e disseminate di hotel di lusso, visitati ogni anno da 250.000 turisti, che giungevano soprattutto via mare. I primi grandi jet iniziarono ad arrivare proprio in quell'anno, nel 1959. All'epoca, le Hawaii erano un posto scarsamente popolato, dove la maggior parte della gente, in prevalenza giovani, l'età media era tra le più basse degli Stati Uniti, viveva a Honolulu. L'anima dell'arcipelago era polinesiana, ma la sua cultura popolare e le sue istituzioni erano quelle delle piccole città di provincia americane, con i tipici drive-in e la passione per Elvis, che veniva di frequente, e per le squadre sportive delle scuole superiori. Su ogni isola, l'evento sociale dell'anno era il ballo studentesco. C'erano anche raccoglitori di ananas, tagliatori di canna da zucchero e coltivatori di caffè, e c'erano i cowboy locali, chiamati panioli. Honolulu era formata da una mezza dozzina di piccole comunità semi-indipendenti. Il centro città era costituito da un'unica strada lunga, Waikiki da due. Intorno a Honolulu e sulle isole vicine, la terra era destinata all'agricoltura. Gli uomini vivevano nei villaggi, molti nelle capanne delle piantagioni, e facevano la spesa negli empori aziendali. Le strade erano strette. La vita era cara, come è sempre stato nelle Hawaii per via della distanza dalla terraferma, ma c'era una forte e ben radicata abitudine a condurre un'esistenza semplice e frugale. Molto tempo prima di diventare uno Stato, gli hawaiani, orgogliosi di vivere in un territorio americano, si erano uniti militarmente agli Stati Uniti e si erano distinti nella Seconda Guerra Mondiale. Il 442esimo reggimento, interamente composto da hawaiani di origini giapponesi, fu il più decorato di tutta la storia americana fra quelli paragonabili per dimensioni e durata di servizio. L'anziano signore che a quell'epoca non poteva entrare nell'Elks per via della sua razza, mio suocero, Ernest Moon Sung Lo, aveva combattuto anni prima a Guadalcanal. Con la proclamazione dello Stato arrivarono più finanziamenti e vennero migliorate le scuole, gli ospedali e i porti. Ci fu un forte incremento della popolazione, del livello di urbanizzazione e delle spese militari e iniziarono ad giungere molti più turisti. Ultimamente il loro numero si aggira sui 7 milioni l'anno. A Oahu vennero costruite 3 autostrade interstatali, separate dalle più vicine da quasi 4.000 km di oceano. Ma quest'ultimo è solo un dettaglio. Il modo più semplice per far infuriare la gente di qui è dire, come fanno molti sprovveduti visitatori, «Domani torno negli Stati Uniti». 20 anni fa, quando ero appena venuto a vivere negli Hawaii, potevo capire come dovevo remare o orientare la vela guardando la direzione e la velocità del fumo che saliva dalla ciminiera dello zuccherificio di Waialua. Quel fumo ha smesso di salire 12 anni fa, quando la fabbrica è stata chiusa. Ciò che ne rimane è un gigante arrugginito in mezzo a una cittadina confusa che, non a caso, ha offerto lo sfondo per alcuni colossal ambientati nel terzo mondo, In fondo alla strada e vicino alla spiaggia ci sono degli esterni che vengono usati per le riprese del serial televisivo Lost. Altre piantagioni sono state trasformate in villaggi di bungalow, case di lusso o piste da golf. Alcuni dei figli di coloro che vi lavoravano sono diventati medici e avvocati, altri muratori e portamazze. E moltissimi sono diventati politici. Ogni isola ha un proprio governo locale, cosa che potrebbe contribuire a spiegare la fama di buffoneria e filisteismo politico che circonda le Hawaii. Non esistono intellettuali pubblici. Gli stessi dibattiti pubblici sono rari, tranne che per le questioni che violano qualche dogma religioso. L'individualità non è tenuta in gran conto. È la famiglia, l'ohana, l'unità sociale veramente importante. Ma questo ideale polinesiano del gruppo familiare o clan si estende anche ad altre comunità. È come se il fatto di vivere sulla terra confinata di un'isola ispiri le persone a formare altre isole metaforiche indifferenti all'esterno, come l'Elks e gli altri club esclusivi del passato. Ciascuna delle isole fisiche ha una propria precisa identità. Un abitante di Kauai ribadirà con forza la propria differenza da uno di Maui, sciorinando una lunga genealogia a sostegno della sua tesi. Gli isolani più circoscritti sono gli hawaiani, numerosi per via della regola della singola goccia di sangue. Persone che prima della proclamazione dello Stato si consideravano come individui di discendenza portoghese, cinese o filippina, si identificarono come hawaiani tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, quando la sovranità divenne una questione scottante e la loro goccia di sangue hawaiano permetteva loro di accedervi. La lingua hawaiana, che fino a 20 anni fa non veniva praticamente usata nell'ambito dell'istruzione, è diventata oggi piuttosto comune e c'è stata una notevole crescita nel numero di persone che la parlano. Tuttavia, ci sono 40 o più gruppi che si contendono la sovranità hawaiana, da quello più rigoroso dei Kanaka Maoli, il popolo originario, che adorano gli dei della tradizione come Pele, la dea del fuoco e dei vulcani, a coloro che cantano gli inni sacri hawaiani nella moltitudine di chiese cristiane, fino ai mormoni hawaiani, che credono, secondo le rivelazioni del Libro di Mormon, che la Chiesa Cattolica sia la grande meretrice di Babilonia e che gli uomini del continente, i proto-polinesiani, siano giunti nelle Hawaii dalle terre dell'odierna California quando Egot, un viaggiatore mormone di cui si parla nel Libro di Alma, prese il largo nell'Oceano Occidentale e lo disseminò di abitanti. Le Hawaii sono il posto dove ho vissuto più a lungo. Quando ero in Africa, in Asia o in Gran Bretagna, dicevo tra me e me: non vorrei mai morire qui. Il pensiero di morire nelle Hawaii, invece, non mi turba, il che significa che mi piace vivere qui. Dovrei aggiungere che le Hawaii hanno il più alto numero di morti per annegamento pro capite di ogni altro stato. Circa una persona alla settimana soccombe alle enormi onde o ai capricci delle correnti, oppure viene semplicemente sbalzata in mare dagli alisei mentre si trova al largo su un canotto. Il tasso degli omicidi è basso, difficilmente superano i 20 l'anno. Ma quello degli incidenti automobilistici è allarmante. A Honolulu circolano un numero straordinariamente alto di vetture per miglio di strada e, di conseguenza, il problema del traffico è terribile. Tuttavia, strombazzare con il clacson è visto come una barbarie. Viaggiare con i piedi fuori dal finestrino, invece, va di moda. Il progetto di rete ferroviaria che è stato proposto, avanzato per la prima volta 18 anni fa, potrebbe alleviare le condizioni del traffico, ma nei miei anni di permanenza qui ho avuto modo di imparare che gli hawaiani sono parecchio restii al cambiamento. E come molti di coloro che ritengono di essere mal governati, anche gli abitanti delle Hawaii nutrono un viscerale odio verso le regolamentazioni. Qualche anno fa lo Stato decise di usare dei furgoni muniti di radar per monitorare la velocità delle auto. L'iniziativa fu accolta da coro di ululanti proteste, talmente accese che venne ritirata dopo poco tempo, con grande spreco di denaro, e gli eccessi di velocità poterono riprendere indisturbati. Su tutte le spiagge ci sono, bene in vista, dei cartelli che vietano il consumo di alcol, i cani, i giochi con la palla e la musica ad alto volume. Tuttavia, in qualunque giorno si vada in spiaggia, si potrà sempre vedere qualcuno intento a lanciare una pallina da tennis a un cane, mentre tracanna una birra e ascolta musica da una radio accesa a tutto volume. Anche i rifiuti lasciati in giro sono un problema, intendendo con rifiuti tanto gli avanzi di un Happy Meal quanto le auto vecchie abbandonate sul ciglio della strada. Alcune di queste cose possono sembrare disfunzionali o irritanti, ma ci sono altri fattori positivi che le compensano. Per tutta la mia vita ho sempre desiderato il bel tempo. Le Hawaii hanno il clima più mite del mondo e il loro equilibrio di vento e acqua fa di esse una perfetta terra dell'armonia. Non ci sono spiagge private. Tutto il litorale deve essere accessibile a chiunque, dal bagnante occasionale al pescatore al raccoglitore di conchiglie. E dato che i vizi delle persone sono spesso le loro stesse virtù, guardate da un altro punto di vista, l'avversione degli hawaiani per l'autopromozione è spesso una bene accetta forma di umiltà. L'assenza di confronti tesi o attività febbrili è una cosa rara in un mondo iperattivo. Gli isolani sono istintivamente territoriali, ma si tratta di una territorialità che obbedisce a precise regole, cosicché la privacy è importante, al pari dell'educazione e della buona volontà. Anche se gli uccelli e la flora hawaiani sono stati in buona parte spazzati via dagli uomini o dalle specie giunte dall'esterno, gli altri tratti edenici delle Hawaii sono pressoché indistruttibili. Continuo a ripetermi che nessuno potrà mai togliere all'aria il suo profumo di orchidee, spianare le gigantesche scogliere, fermare le grandi onde o cancellare gli arcobaleni. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Paul Theroux dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Gli 11 giudici della Consulta che hanno bocciato il lodo Alfano hanno qualcosa in comune, come sottolinea Andrea Marcenaro dalle pagine del Foglio. Francesco Amirante, presidente di sezione della Corte di Cassazione, nato a Napoli il 16 aprile 1933. Paolo Maddalena, presidente di sezione della Corte dei Conti, nato a Napoli il 27 marzo 1936. Alfio Finocchiaro, presidente di sezione della Corte di Cassazione, nato a Caserta il 10 settembre 1935. Alfonso Quaranta, presidente di sezione del Consiglio di Stato, nato a Napoli il 2 gennaio 1936. Luigi Mazzella, avvocato generale dello Stato, nato a Salerno il 26 maggio 1932. Gaetano Silvestri, professore ordinario di diritto costituzionale, nato a Patti, Messina, il 7 giugno 1944. Sabino Cassese, professore ordinario di diritto amministrativo, nato ad Atripalda, Avellino, il 20 ottobre 1935. Maria Rita Saulle, professore ordinario di diritto internazionale, nata a Caserta il 3 dicembre 1935. Giuseppe Tesauro, professore ordinario di diritto internazionale, nato a Napoli il 15 novembre 1942. Alessandro Criscuolo, presidente di sezione della Corte di Cassazione, nato a Napoli il 15 luglio 1937. Che cazzo gliene frega alla Corte Costituzionale, si rifletteva ieri il mio amico Eugenio ed io, di una faccenda squisitamente settentrionale. Avete ascoltato la lettura della rubrica di Andrea Marcenaro, Andreas Version, dal Foglio dell'8 ottobre.